Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Solar cooling, ovvero come raffrescare con il sole, è il tema di questa sera di Mr. Kilowatt. Io sono Maurizio Melis, mentre in linea con noi c'è Mario Motta, docente di ingegneria solare termica e sistemi impiantistici a basso impatto ambientale al Politecnico di Milano. Buonasera Motta. Buonasera. Dunque Motta, diciamo subito che stiamo parlando di una tecnologia che si abbina ai ben più noti pannelli termosolari o pannelli solari termici, cioè quei pannelli che si mettono sul tetto e con cui abitualmente si produce acqua calda sanitaria oppure nelle installazioni più grandi anche il riscaldamento invernale. Abbiamo molte cose da dire, mi pare il caso di iniziare da questo strano binomio, ovvero dalla possibilità di ottenere il freddo a partire dal sole. Come si fa? Si fa utilizzando delle macchine frigorifere che a differenza delle macchine frigorifere che convenzionalmente sono utilizzate, non utilizzano energia elettrica per azionare un compressore, ma utilizzano diversi processi fisici, in realtà ci sono diverse famiglie di tecnologie, ma tutte utilizzano energia termica per attivare il ciclo frigorifero. D'accordo. L'energia termica in questo caso è fornita da un impianto solare termico. C'è un problema che affligge molti impianti solari termici legato alla taglia, cioè uno non sa mai se dimensionare l'impianto solo per l'acqua sanitaria o anche per il riscaldamento, perché d'estate si trova un impianto sovradimensionato, cioè non ha bisogno del riscaldamento, ha un sacco di pannelli solari e qui interviene il solar cooling. Questo è corretto. Nella realtà la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'uso degli impianti solari termici è una delle applicazioni in assoluto più convenienti e che sono più diffuse in molti paesi del mondo. L'utilizzo della stessa tecnologia per coprire parte del fabbisogno di riscaldamento ha il limite che non si riesce a coprire una quota di fabbisogno particolarmente significativa dell'energia necessaria per il riscaldamento, perché il rischio è che se si dimensiona l'impianto in maniera da coprire, non so, l'80% del fabbisogno di riscaldamento, durante il periodo estivo l'impianto produce energia termica che non può essere utilizzata altrimenti. Addirittura si può danneggiare l'impianto, ho sentito, perché non si sa come smaltire tutto sto calore? Sì, diciamo che è previsto che gli impianti abbiano dei periodi in cui possono produrre più energia termica di quanto serve all'utenza, però diciamo non fa bene al sistema nel suo complesso perché si stressa dal punto di vista meccanico. Quindi diciamo, una delle soluzioni che si sono trovate a questo problema è stata l'introduzione di sistemi di solar cooling, quindi sistemi che utilizzano quel calore in eccesso durante il periodo estivo. D'accordo, ecco, proviamo a fare qualche esempio, taglie, usi, applicazioni di questa tecnologia. Intanto, ecco, questo insomma, macchina frigorifera, quanto è grande? Uno se la può mettere nel locale caldaia di casa? Assolutamente sì, diciamo, le più piccole hanno la dimensione di una lavatrice. Ah. Quelle un po' più grandi, sempre parliamo sempre di utenze domestiche, certo, di piccola taglia, saranno grandi come un frigorifero. Allora, parliamo appunto del ventaglio di applicazioni. Il ventaglio di applicazioni, tendenzialmente, diciamo, ad oggi esistono sul mercato sistemi solar cooling, produzione di acqua sanitaria e riscaldamento per utenze residenziali di piccola taglia. E sono, diciamo, applicazioni abbastanza sofisticate per una clientela d'elite, diciamo. Che cerca più, come dire, la soluzione energeticamente sostenibile piuttosto che quella più economica. Che non la convenienza economica, d'accordo. Esatto. Per applicazioni di più grande dimensione, penso a edifici multipiano, centri commerciali, hotel o ancora anche applicazioni industriali, non si può comprare un sistema di solar cooling completo, ma bisogna acquistare dei componenti e metterli insieme. Certo. Questo, diciamo, dal punto di vista realizzativo è necessario che siano dei progettisti che siano capaci di farlo, ma dà il vantaggio in termini, diciamo, di costo della potenza installata, dà un vantaggio economico, tendenzialmente sono le economie di scala che permettono di ridurre il costo di investimento. Perché questa è una tecnologia che sta arrivando adesso sul mercato e soffre ancora molto di questo effetto scala, cioè ci sono pochi impianti in giro per cui non si è fatto in tempo a suddividere i costi di progettazione su tutti gli impianti. E insomma, i costi di sviluppo. Sì, i costi di sviluppo, d'accordo. Quali sono i tempi di payback? Cioè in quanto tempo ci si può ripagare un impianto di solar cooling, tenendo presente che c'è una grande variabilità, quindi dobbiamo dare dei range molto ampi? Va detto una cosa, che questo tipo di sistemi, questo tipo di tecnologie sono più adatte a utenze, parlo di utenze civili, che hanno la curva di domanda che è caratteristica, per esempio, gli edifici a basso consumo energetico. Mm. Cioè, per questo tipo di edifici risultano più convenienti perché riescono a coprire una quota di fabbisogno maggiore in percentuale rispetto a quelle degli edifici tradizionali. Per edifici di questo tipo e per utenze residenziali non particolarmente piccole, i tempi di ritorno sono nell'ordine dei 10 anni. D'accordo. Va detto che non ci sono incentivi specifici ad oggi su questo tipo di tecnologia. Non ci sono incentivi nazionali? Non ci sono incentivi nazionali. Esistono in realtà una miriade di bandi regionali, comunali, spesso, diciamo, l'ultimo in Regione Lombardia, se non sbaglio, è stato aperto l'anno scorso, dando alla fine la possibilità di fare installazioni di questo tipo di tecnologia a costi che sono significativamente bassi. Grazie Motta. Grazie a lei. Bene, grazie di averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che potete scaricare le puntate di Mr. Kilowatt dal sito di Radio 24. Ci trovate facilmente scrivendo Kilowatt nella casella di ricerca che trovate in alto a destra nella homepage. Per scriverci invece c'è l'email mrkilowatt@radio24.it. Mr. Kilowatt torna lunedì mattina con una puntata dedicata alla caldaia. Quali sono i criteri da adottare nel momento in cui è necessario sostituirla? Cercheremo di rispondere a questa domanda. Buon fine settimana a tutti.